Radio 24 Reportage. Bentornati da Laura Bettini a questo speciale in cui stiamo riflettendo sulle città del futuro. Abbiamo detto nella prima parte delle città costruite ex novo in Cina e negli Emirati Arabi, per esempio, e di quelle completamente in trasformazione come Astana in Kazakhstan, vecchia città di stampo sovietico che il presidente Nazarbayev sta facendo trasformare secondo il progetto firmato dal famoso architetto Kisho Kurokawa, giapponese, scomparso nel 2007 all'età di 73 anni. Ma non è la fama a garantire un buon intervento, sottolinea Leopoldo Freire, architetto e relatore generale del Congresso Mondiale degli Architetti che quest'anno si è svolto a Torino. Si stanno facendo interventi radicali sulle città, secondo un indirizzo, come dire, molto occidentale, distruggendo un patrimonio storico, architettonico e culturale importantissimo per tutti quanti, il che non vuol dire che non bisogna trasformare la città si trasforma, volenti o nolenti, però bisogna avere l'attenzione di conservare anche la cultura dei luoghi. Ma queste trasformazioni così, diciamo, inopportune sono fatte anche perché ci sono architetti magari che non hanno questa sensibilità. E queste trasformazioni avvengono sostanzialmente nei paesi in cui i regimi non sono democratici. Quella è la prima. Vengono trasformate per motivi economici e di adeguamento infrastrutturale in luoghi dove non c'è una vera democrazia, per cui non c'è un'opinione pubblica, e ci sono architetti anche di grande fama che non si fanno molti problemi. Questo è un problema molto serio, che ha poi delle ripercussioni ambientali, insomma, quando queste città comunque avranno un impatto sull'ambiente in termini di consumi energetici, in termini di inquinamento, insomma tutte le storie che abbiamo letto su Pechino nel periodo delle Olimpiadi lo dimostrano. Benedetto Camerana, architetto a Torino, ancora in questa città torniamo, tra il 97 e il 99 realizzò l'Environment Park di Torino, cioè il parco tecnologico e scientifico della città, un complesso alimentato a energie rinnovabili, completamente coperto di verde che è accessibile al pubblico. Un progetto quindi pioniere in Italia. Negli anni poi Camerana ha lavorato in tutto il mondo, ma il caposaldo della sua attività non è cambiato e il suo obiettivo sono le città esistenti, non le nuove. Uno dei temi che oggi è necessario, che ieri era un tema più di cultura, di scelta, è quello della, diciamo in generale, del rispetto dell'ambiente. È chiaro che se andiamo a parlare della categoria di progetto che è la ricostruzione della città nel suo interno, è chiaro che lì è più difficile andare a spingere agli estremi queste scelte di integrazione col verde, però si può fare molto in termini di recupero dell'acqua, in termini di risparmio energetico, quindi, perché noi abbiamo il problema che le città, quando dico noi dico soprattutto l'Italia, ma anche l'Europa, meno nel resto del mondo, le città hanno consumato territorio crescendo indiscriminatamente, allargandosi a macchia d'olio indiscriminatamente, consumando territorio, lasciando vaste aree grigie o marroni, come gli inglesi le chiamano, gli americani le chiamano brownfields, cioè aree già urbanizzate ma non più usate, all'interno del recinto urbano e della crescita urbana. Questo appunto significa consumo del territorio. Il consumo del territorio dal punto di vista ecologico e anche urbanistico, nel senso dell'idea di città, è una cosa che è un dato di fatto, ma comunque è un fenomeno che potrebbe essere corretto combattere. La cultura dell'architettura oggi sta pensando a combatterlo, questo fenomeno, cioè perché il consumo del territorio porta francamente a dei problemi di ecologia, porta di conseguenza a un maggiore calore nella pianura padana, porta delle alluvioni. Quindi la decisione di ricompattare la città, di costruire dentro la città nuovi quartieri, Eco City Life, Eco Heinz, ecco le cose che abbiamo fatto a Torino, al Villaggio Olimpico, al Spina 3 e altre cose che facciamo, vuol dire riconcentrare la città, costruire la città al suo interno, e questa è una scelta di grande valore ecologico e, devo anche ammettere, immobiliare, non c'è dubbio. L'ecologia di questa scelta, e qui c'è un altro punto, è profonda anche nel ragionamento sulla efficienza dei trasporti. queste ricostruzioni urbane hanno molto senso quando avvengono su in aree che sono ben servite da mezzi di trasporto collettivo efficienti, legacy la metropolitana. Questo per ridurre il numero dei parcheggi interrati e ridurre il flusso di traffico generato. Quindi costruire torri o non torri, ma comunque con grande concentrazione di persone che lavorano, che vivono sull'interscambio metropolitana, è un'altra scelta di grande valore ecologico. E le periferie? Quelle non sono aree abbandonate, interne alla città, ma che abbiano bisogno di qualche intervento che le umanizzi è un problema di quasi tutta Italia, anche quando sono piene di villette e di aiuole. Ritroviamo allora Leopoldo Freire. Le periferie sono nelle condizioni in cui sono, non solo perché si è costruito male, ma fondamentalmente perché non ci si è occupati degli spazi pubblici delle periferie. E questo fa sì che le vie, le strade, le piazze delle periferie siano dei luoghi abbandonati, e quando i luoghi sono abbandonati nessuno se ne occupa, non viene fatta la manutenzione. Naturalmente vi fiorisce la delinquenza. L'aiola non risolve niente, cioè il problema del verde posto così è inutile. Sì, possiamo dire che abbiamo incrementato di tot metri quadri il verde milanese e questo ci aiuta a ripulire un po' l'aria, ma non sono le aiole che risolvono il problema. Il problema è intervenire sugli spazi pubblici per far sì che siano luoghi di socializzazione. Quando si costruiscono quartieri, come si costruiscono anche costosi, dove non c'è un negozio, dove non c'è un bar dove sedersi a un tavolino, dove non c'è un'edicola dove comprare il giornale, perché c'è solo un grande supermercato che serve 100.000 persone, si uccidono gli spazi pubblici, perché il luogo di socializzazione nella nostra società sono diventati centri commerciali. Facciamo un esempio molto milanese. C'è stata un po' una polemica qualche tempo fa di Giorgio Armani su Piazza del Duomo. Ogni tanto Piazza del Duomo ricorre, no, nelle pagine dei giornali su se è bella o brutta, se funziona o non funziona. Piazza del Duomo ha avuto una trasformazione nei fatti, perché Piazza del Duomo, che fino a 15 anni fa era un luogo sostanzialmente vuoto, perché non è mai stata il luogo principale della città, è sempre stata la galleria Vittorio Emanuele, luogo principale della città, adesso è diventato luogo di socializzazione degli extracomunitari. Insomma, il problema non è che è brutto che ci sono gli extracomunitari in Piazza del Duomo seduti per terra, il problema è che in Piazza del Duomo le panchine non ci sono. Ci piace concludere questa serie di spunti che abbiamo raccolto sulle città del futuro con questa riflessione di Giovanni Leoni, direttore della rivista D'Architettura, intervistato da Andrea Silla. Credo che la trasformazione principale delle città rispetto alla grande cultura urbanistica di cui forse ancora siamo figli, nonostante tante sperimentazioni in altri sensi, è che un tempo le città si vedevano, riuscivamo a vederle, avevamo strumenti per rappresentarcele. Un amministratore italiano degli anni 50 ancora pensava di avere un'immagine della città che amministrava. Quelle città hanno avuto anche in Italia uno sviluppo differente, e molto spesso, soprattutto le grandi città, sono città invisibili, non, come Calvino diceva, invisibili nel senso che gli amministratori non hanno gli strumenti per vederle, ancor più dei cittadini, ancor prima dei cittadini. E quindi stanno avanzando, credo, su questo riflessioni che ci portino non tanto a pensare il progetto della città come il disegno della città, come forse un tempo ci si poteva illudere di fare, ma come una ricerca di quelli che sono gli strumenti per governare la complessità delle città, senza pretendere di disegnarle, un tempo si diceva al tecnigrafo, oggi diremmo al computer. Ci sono altre culture, un architetto che va in Cina può permettersi oggi di disegnare una città. In Italia non è questo il tema, in Italia il tema è governare la complessità, avere strumenti per governare i processi complessi che trasformano le nostre città. E la trasmissione invece la chiudiamo con uno sguardo al futuro più futuro, anche se suona un po' come un ritorno al passato remoto. Si tratta infatti di un progetto per tornare a vivere tra gli alberi. Ce ne parla la nostra Giorgia Scaturro da Londra. Gordon Claes, che è uno studioso dell'Università di Botanica della Viv, ha trovato il modo di dire agli alberi, alle radici degli alberi, come modellarsi. Gordon Claes ha fondato il suo centro di orticoltura e design, che si chiama Plantware a Tel Aviv, dove già da 10 anni si sta studiando il modo di sviluppare le radici in varie forme, e questo sfruttando il principio dello sviluppo aeroponico, cioè in presenza solo di aria le radici restano morbide e quindi possono prendere tutte le sagome che noi vogliamo. Poi, trapiantate sul suolo, ricominciano a produrre l'ormone che li rende duri e quindi hanno una costruzione concreta. Ebbene, ci sono già degli esempi: le pensiline degli autobus a Tel Aviv, oppure delle panchine nei parchi per bambini all'ospedale sempre di Tel Aviv. Adesso Gordon sta cercando di spingersi oltre e creare una vera e propria casa, grazie allo studio di un altro ricercatore, e questa volta andiamo a New York con Joaquin Mitchell, che è un architetto che si è laureato al MIT e ha fondato Terraform 1, che è un'organizzazione che si occupa di design ecologico, dove è stato messo a punto un sistema computerizzato per modellare le radici a forma di casa. Ora, il problema è anche, una volta creato questa struttura esterna di una casa sull'albero, come far arrivare acqua, elettricità e calore. Joaquin Mitchell ha ovviamente pensato a forme rinnovabili ed ecologiche. Si tratta di prelevare l'acqua piovana e farla trasportare all'interno della casa attraverso un sistema di tubi e strutture galleggianti, per poi farla poi riuscire, una volta utilizzata dagli inquilini della casa, come forma di acqua di riciclo. Il riscaldamento funziona sempre con tubi radianti che sono posti sotto il pavimento e vengono alimentati dalle radiazioni solari che attraverso le foglie, il fogliame che circonda la casa, possono essere filtrate. Ci fermiamo qui. Da Laura Bettini un grazie a tutti i nostri ospiti per aver partecipato a questa trasmissione, grazie a tutti voi dell'ascolto e ovviamente buone vacanze.